Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale, la prima di ottobre. Io amo questo mese, non so, spero anche voi, insomma, il mese dei colori autunnali e questa è appunto la nostra prima rassegna stampa. E vi segnalo innanzitutto la copertina dell'Economist di questa settimana, che ha un'immagine naturalmente elaborata un po' dal computer di Joe Biden, il suo viso, il viso dell'ex vicepresidente ora candidato alla presidenza, e il titolo sotto è Bidenomics, cioè quale sarà la strategia sull'economia di Joe Biden. Teniamo conto però che questa copertina è andata, questo numero dell'Economist è andato in stampa prima della notizia arrivata nella notte tra giovedì e venerdì della positività al virus di Donald Trump e della moglie Melania. Dico questo perché sicuramente l'Economist avrebbe probabilmente fatto un'altra copertina e comunque vedremo se ci saranno dei cambiamenti anche nelle strategie elettorali di Joe Biden alla luce di questi avvenimenti che riguardano appunto la positività del presidente. Mentre la copertina del New Scientist, oltre ad avere alcuni aggiornamenti su quello che la ricerca sta scoprendo sul coronavirus, ha un'immagine che vuole richiamare alla mente di tutti noi la teoria dell'evoluzione, quella naturalmente di Darwin, quindi la selezione della specie, ma anche alla luce di anche qui scoperte e ricerche che si susseguono negli anni per quanto riguarda il peso della genetica in poi in come si sviluppa un individuo. Forse i geni, si ipotizza, ma ripeto, è una delle tantissime ipotesi su cui lavorano i biologi e non solo i biologi, forse i geni non sono così determinanti, cioè forse l'ambiente potrebbe esserlo ancora di più. Passiamo ai quotidiani, parto in questo caso da Le Monde, un quotidiano francese, perché è chiaro che lo abbiamo visto praticamente in tutti i paesi, Stati Uniti compresi, l'emergenza prima sanitaria e poi economica e sociale ha naturalmente portato gli stati a varare pacchetti di stimoli o di sostegno, specie alle fasce più deboli della popolazione. E questo però, per esempio, Le Monde ne dà conto, ha portato a quella che viene definita una voragine nei conti della Sécurité sociale francese, cioè la cassa di previdenza sociale e assistenza malattia. Secondo il progetto di legge finanziaria che in Francia è stato presentato, ricordiamo che per esempio nel Regno Unito quella che noi chiamiamo legge finanziaria, cioè il budget di uno Stato per l'anno successivo, ne è stata rimandata la presentazione, e invece appunto i francesi hanno presentato la loro legge finanziaria e il deficit della cassa malattie vecchiaia raggiungerebbe i 44,4 miliardi di euro nel 2020. Questo è un deficit senza precedenti, dovuto essenzialmente al taglio dei posti di lavoro nelle imprese, alla diminuzione della massa salariale e di conseguenza dei contributi versati, con ricorso massiccio alla cassa integrazione che prevede il versamento di indennità esentate da oneri sociali. Le Figaro invece ha raccontato una storia molto bella, l'avevo anche notato insomma sfogliando i quotidiani per Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizio, avevo notato questo richiamo in prima pagina ed è appunto un'indagine tra lo storico e il letterario sulla figura di Maria Antonietta, si arricchisce di una nuova puntata, scrive Le Figaro, il feuilleton che ha a lungo appassionato storici, biografi e scrittori. Grazie a naturalmente moderne tecnologie sono stati decifrati stralci di frasi fra Maria Antonietta e il colonnello Hans Axel, conte di Fersen, fin qui incomprensibili. E queste parole tra i due sono appassionate e focose, insomma una grande storia d'amore per Maria Antonietta che poi fece la fine che sappiamo perché con la Rivoluzione Francese naturalmente cambiò tutto in Francia. Tornando a un presente molto difficile, Financial Times venerdì ha dedicato il suo titolo di apertura alla decisione annunciata da Ursula von der Leyen di fare causa al Regno Unito. Sapete che con tutte le come possiamo dire, la flessibilità che si poteva concedere perché i negoziati della Brexit hanno coinciso con la pandemia, questa flessibilità, ritiene la Commissione europea e le autorità di Bruxelles, non può arrivare a far cancellare gli accordi che erano stati stabiliti con il governo di Boris Johnson per la Brexit. E quindi, siccome Boris Johnson ha ribadito più volte di non voler più seguire quegli accordi, con tra l'altro anche alcuni malumori all'interno del suo partito e naturalmente con l'opposizione, Bruxelles ha deciso di fare causa, e vedremo anche qui come andrà a finire, perché le leggi internazionali, questo è un classico caso in cui le leggi internazionali si intrecciano con quelle nazionali e soprattutto con gli interessi nazionali, in questo caso di Boris Johnson, che, lo ricorderete, aveva stravinto le elezioni però nel dicembre del 2019, era un altro mondo, proprio promettendo la Brexit. Il suo slogan era stato Get Brexit Done. Un altro invece tema che ha veramente occupato le prime pagine di tutti i giornali britannici, nel senso di inglesi ma anche scozzesi, è quello del fatto che Margaret Ferrier, che è una deputata dell'opposizione e appartiene al partito scozzese SNP, il partito indipendentista, e quindi fa avanti e indietro dalla Scozia, da Glasgow in particolare a Londra, per partecipare ai lavori della Camera dei Comuni, la Camera Bassa del Parlamento Britannico, e nonostante fosse positiva è andata avanti e indietro, ha preso treni, non ha detto niente, poi si è detta pubblicamente molto pentita di questo, ha chiesto una sorta di perdono e comprensione, però intanto naturalmente si è attirata, anche perché la notizia è arrivata poche ore prima di quella ancora più grave, naturalmente, della positività di Donald Trump e di sua moglie al coronavirus. Sempre dal Regno Unito, perché insomma non c'è soltanto la Brexit e non c'è soltanto il Covid, c'è un grande tema che restava aperto, ma non solo nel Regno Unito, ed è quello dei giornalisti che, pur avendo degli account che in qualche modo sono riconducibili al loro ruolo di giornalisti per una testata, che può essere, insomma, in questo caso parliamo della BBC, quindi una testata soprattutto televisiva, e però da quegli account esprimono opinioni personali. E il nuovo presidente della BBC ha spiegato che, in caso di violazioni di un codice che ha imposto di non esprimere opinioni ai giornalisti che hanno degli account dove chiaramente c'è anche un riferimento alla BBC, ci saranno dei provvedimenti disciplinari. Vi segnalo anche, questa settimana ho dato un po' un'occhiata anche a Al Jazeera, perché come purtroppo dico sempre, ma non è certo una mia scoperta, la pandemia ha coperto ancora più di quanto accade normalmente tutti gli avvenimenti in parti del mondo che sono lontane dal nostro occidente, e in questo caso Al Jazeera ha dato notizia di due fatti: da una parte che il presidente della Repubblica Centroafricana Faustin Archange Touadéra ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni, che sono previste per il 27 dicembre. Anche qui l'Africa naturalmente non è il continente africano, e alcuni paesi all'interno dell'Africa più di altri sono stati a loro volta colpiti dal Covid, anche lì è tutto stato in qualche modo congelato, e nella Repubblica Centrafricana per esempio naturalmente c'è un processo di riforme che va avanti, e vedremo se appunto il presidente avrà un'altra chance per portarle avanti. Poi naturalmente c'è anche un'incertezza sul rispetto per i tempi del voto, perché anche lì, come tutti, siamo naturalmente, quando ci sono fissati appuntamenti di questo genere, poi bisogna vedere l'evoluzione della pandemia. L'altra notizia, sempre dal Jazeera, riguarda un processo che c'è stato in Congo, e un attivista congolese e altri quattro sono stati processati con l'accusa di furto per aver tentato di rimuovere un oggetto funerario africano del XIX secolo dal museo Quai Branly di Parigi. E questo è un tema che si lega a questo fenomeno che è stato molto forte negli Stati Uniti, ma anche nel Regno Unito e non solo, di rimuovere appunto simboli di un passato o violento o colonialista o divisivo. Ultimissima segnalazione, ve la faccio da Internazionale di questa settimana, che ha tradotto un breve commento del Guardian sulle università, intitolato «La sfida delle università». Una seconda ondata di infezione da Covid-19, che avrebbe provocato altri malati e morti, sconvolgendo la vita economica e sociale, era attesa. Nel Regno Unito e in altri paesi europei, tra cui Francia e Spagna, è arrivata prima del previsto. E sul tema appunto delle iscrizioni, conclude questo breve editoriale, le statistiche definitive sulle iscrizioni universitarie non ci sono ancora, ma la presenza di studenti stranieri è crollata. Dopo aver evitato lo scenario peggiore, le università devono fare di tutto per garantire agli studenti l'istruzione che meritano, oltre che rispettare le regole per proteggere tutti. Ma la principale responsabilità ricade sul governo, il cui compito è fare in modo che il sistema di test e tracciamento funzioni. Da questo dipende, oltre al presente, anche il futuro. E credo che questo tema del tracciamento e eventualmente delle app per i paesi che l'hanno sviluppata, l'Italia tra questi, tornerà prepotentemente di attualità, perché, e torniamo al caso del Presidente degli Stati Uniti, negli Stati Uniti non c'è un'app di tracciamento e è già risultato in queste prime ore difficile capire Hope Hicks, che è la persona, la consulente di Trump risultata positiva, chi ha incontrato nei 15 giorni precedenti alla positività. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.